terzo anello ad alta voce. Roberto Pedicini legge Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson. Traduzione di Carlo Fruttero e Franco Lucentini. Un tempo, per commettere delitti senza alcun rischio per la propria persona e reputazione, si assoldavano e mandavano attorno dei bravi. Io, dottor Jekyll, fui il primo a disporre di un bravo che mandavo attorno perché si procurasse i miei piaceri. Fui il primo a disporre di un altro me stesso che poteva in qualsiasi momento sfrenarsi e godere di ogni libertà, come un ragazzo di scuola nelle sue scappate, senza minimamente compromettere la dignità e gravità della mia figura pubblica. Ma anche nell'impenetrabile mantello di Hyde ero perfettamente al sicuro. Se ci pensi, neppure esistevo. Bastava che dalla porta sul retro scivolassi nel laboratorio e ingoiassi la pozione, tenuta sempre pronta a questo scopo, perché Edward Hyde, qualsiasi cosa avesse fatto, sparisse, come sparisce da uno specchio la traccia di un respiro. E perché al suo posto, immerso tranquillamente nei suoi studi, al notturno raggio della lampada, ci fosse uno che poteva ridersi di qualsiasi sospetto. Henry Jekyll. I piaceri che m'affrettai a cercare nel mio travestimento erano, come ho detto, poco decorosi. Non credo di doverli definire più severamente. Ma nelle mani di Edward Hyde cominciarono presto a inclinare verso il mostruoso. Spesso, al ritorno da quelle imprese, consideravo con sbigottito stupore la mia vicaria depravazione. Quella specie di mio familiare, che avevo tratto dalla mia stessa anima e mandavo in giro per il suo piacere, era un essere intrinsecamente maligno e perverso. Al centro di ogni suo pensiero, di ogni suo atto, c'era sempre soltanto lui stesso. Beveva il proprio piacere, con avidità bestiale, dalle più atroci sofferenze altrui. Aveva la spietatezza di un uomo di pietra. Henry Jekyll era a volte agghiacciato dalle azioni di Edward Hyde, ma la situazione era così al di fuori di ogni norma, di ogni legge ordinaria, da indebolire insidiosamente la sua coscienza. Hyde, e soltanto Hyde, dopo tutto, era colpevole. E Jekyll, quando tornava in sé, non era peggiore di prima. Si ritrovava con tutte le sue buone qualità inalterate. Si affrettava, anzi, se possibile, a disfare il male fatto da Hyde. E così la sua coscienza dormiva. Le infamie di cui così mi resi complice, giacché non saprei ammettere neppure adesso di averle commesse io, non starò a descriverle. Dirò solo per quali vie e dopo quali avvertimenti giunse finalmente il mio castigo. C'è però un incidente che devo ricordare, anche se non ebbe conseguenze. Un mio atto di crudeltà verso una bambina provocò l'intervento di un passante che ho riconosciuto l'altro giorno nella persona di tuo cugino Enfield. A lui si aggiunsero il medico e i familiari della piccola e ci furono momenti in cui temetti per la mia vita. Infine, per placare la loro giusta collera, Hyde li condusse fino alla porta del laboratorio e pagò con un assegno firmato da Jekyll. Per ogni evenienza, aprì allora in un'altra banca un conto intestato a Edward Hyde. E quando, cambiando inclinazione alla mia scrittura, ebbi provvisto Hyde anche di una firma, mi credetti al riparo da ogni colpo del destino. Circa 2 mesi prima dell'assassinio di Sir Danvers, ero stato fuori per una delle mie avventure ed ero rincasato molto tardi. Il giorno dopo mi svegliai nel mio letto con un senso di curiosa estraneità. Ma invano mi guardai intorno. Invano considerai il mobilio elegante e le proporzioni della mia stanza, con le sue alte finestre sulla piazza. Invano riconobbi i cortinaggi e il mogano del mio letto a colonne. Qualcosa insisteva a farmi pensare che non fossi dov'ero, che non mi fossi risvegliato nel luogo dove sembrava che mi trovassi, ma nella stanzetta di Soho, dove dormivo di solito quando ero nella pelle di Hyde. Quella specie di illusione era così strana che, pur sorridendone e ricadendo a tratti nel confortevole dormiveglia del mattino, mi misi a studiarla col mio solito interesse per ogni fenomeno psicologico. Ma ero ancora lì che analizzavo quando, per caso, in un più lucido intervallo di veglia, lo sguardo mi cadde su una delle mie mani. Ora, le mani di Henry Jekyll, come ricordo che tu stesso osservasti una volta, erano tipiche mani di medico, grandi, chiare e ben fatte. Ma la mano che vidi lì, sul risvolto del lenzuolo, nella luce giallastra del mattino londinese, era nudosa e scarna, d'un pallore grigiastro, fittamente ricoperta di peli scuri. Era la mano di Edward Hyde. Restai a guardarla almeno mezzo minuto, instupidito dalla mera sorpresa, prima che il terrore mi scoppiasse nel petto con lo schianto d'un colpo di piatti in un'orchestra. Balzai dal letto, corsi allo specchio. L'evidenza mi agghiacciò. Sì, m'ero addormentato Jekyll e mi svegliavo Hyde. Com'era possibile? Mi chiesi. E subito dopo, con un nuovo soprassalto di terrore, come rimediare? Era ormai giorno fatto, i domestici erano alzati e l'occorrente per la pozione era nella stanza sopra il laboratorio. Questo significava un lungo viaggio per due rampe di scale, i corridoi dietro la cucina, il cortile aperto e la sala anatomica. Avrei potuto coprirmi la faccia, certo, ma che sarebbe servito dal momento che non potevo nascondere la mia statura? Poi mi ricordai con immenso sollievo che i domestici s'erano abituati agli andirivieni del mio altro me stesso. Mi vestii dunque, come meglio potei, con quei miei abiti troppo grandi. Traversai la casa, con sbigottimento di Bradshaw, che indietreggiò vedendo il signor Hyde a quell'ora e in quello strano abbigliamento. E una decina di minuti più tardi, il dottor Jekyll, ripreso il proprio aspetto, sedeva con la fronte aggrottata, fingendo di far colazione. Non si può dire infatti che avessi appetito. Quell'incidente inesplicabile, quel rovesciamento delle mie precedenti esperienze, mi parvero una profezia di sciagura, come le lettere che tracciò sul muro il dito babilonese. Cominciai allora a riflettere, più seriamente di quanto non avessi fatto prima, sulle difficoltà e i pericoli della mia doppia esistenza. Quell'altra parte di me che avevo il potere di proiettare aveva avuto modo di esercitarsi e affermarsi sempre di più. M'era sembrato ultimamente come se Hyde fosse cresciuto di statura e nelle mie stesse vene, quando ero in quella forma, avevo sentito il sangue fluire più generosamente. Intravidi il pericolo che mi minacciava. Se le cose fossero continuate così, l'equilibrio della mia natura avrebbe finito per esserne sconvolto. Non avrei più avuto facoltà di cambiare e sarei rimasto imprigionato per sempre nella pelle di Hyde. Il mio preparato non s'era dimostrato sempre della stessa efficacia. Una volta, ancora al principio, non aveva avuto il minimo effetto. Altre volte ero stato costretto a raddoppiare la dose e in un caso addirittura a triplicarla, con rischio gravissimo della vita. Ma dopo quell'incidente mi resi conto che la situazione era cambiata. Se al principio la difficoltà consisteva nello sbarazzarmi del corpo di Jekyll, da qualche tempo invece, gradualmente ma decisamente, il problema era diventato quello opposto. A quanto tutto indicava, cioè, io stavo perdendo a poco, il controllo della parte originaria e migliore di me stesso, e a poco identificandomi con la secondaria e peggiore. Ormai capii, dovevo scegliere tra le mie due nature. Queste avevano in comune la memoria, ma condividevano in misura affatto diversa le altre facoltà. Jekyll, di natura composita, partecipava ora con le più vive apprensioni e ora con avido gusto ai piaceri e alle avventure di Hyde. Ma Hyde non si curava minimamente di Jekyll. Tutt'al più se ne ricordava come il bandito di montagna si ricorda della caverna dove trova rifugio quando è inseguito. Jekyll era più interessato di un padre, Hyde più indifferente di un figlio. Scegliere la sorte di Jekyll era sacrificare quegli appetiti cui un tempo indulgevo in segreto e che ora soddisfacevo liberamente. Scegliere quella di Hyde significava rinunciare a mille interessi e aspirazioni, diventare di colpo e per sempre un reietto, disprezzato e senza amici. Parrebbe che la prima scelta dovesse imporsi, ma c'è qualcos'altro da mettere sulla bilancia. Mentre Jekyll, infatti, avrebbe acutamente sofferto i bruciori dell'astinenza, Hyde non si sarebbe neppure reso conto di ciò che aveva perduto. Per singolari che fossero le circostanze, i termini del dilemma erano dunque banali e antichi quanto l'uomo. Ogni tremante peccatore, nell'ora della tentazione, si trova di fronte alle stesse lusinghe come alle stesse paure. E sono poi sempre queste a gettare i dadi per lui. Ciò che del resto m'accadde, come quasi sempre accade, fu di scegliere la strada migliore, ma senza poi avere la forza di restarvi. Sì, preferii l'anziano medico insoddisfatto e irrequieto, ma circondato da amici e animato da oneste speranze. E dissi un risoluto addio alla libertà, alla relativa giovinezza, al passo leggero, ai vivaci impulsi e ai segreti piaceri di cui avevo goduto nella persona di Hyde. Feci questa scelta, forse, con qualche inconsapevole riserva. Non disdissi infatti la casa di Soho, né distrussi gli abiti di Hyde, che tenevo nella stanza sopra il laboratorio. Per due mesi, tuttavia, tenni fermo nella mia risoluzione. Per due mesi condussi la vita più austera che avessi mai condotto e ne ebbi in compenso tutte le soddisfazioni d'una coscienza tranquilla. Ma le mie paure col tempo si indebolirono. Le lodi della coscienza con l'abitudine persero efficacia. Cominciai invece ad essere tormentato da impulsi e voglie angosciose, come se lo stesso Hyde stesse lottando per liberarsi. E alla fine, in un momento di fiacchezza morale, di nuovo preparai e bevvi la pozione. Thank you. Non credo che l'ubriacone, quando ragiona con se stesso del proprio vizio, si preoccupi mai veramente dei pericoli a cui si espone nel suo stato di abbrutimento. E così neanche io, per quanto spesso avessi riflettuto sulla mia situazione, avevo mai tenuto abbastanza conto della completa insensibilità morale e della dissennata prontezza al male che erano i tratti dominanti di Hyde. Ma fu di lì che mi venne il castigo. Il mio demone era rimasto a lungo chiuso in gabbia e uscì fuori ruggendo. Fui così conscio, prima ancora di aver finito la pozione, di una più sfrenata e furiosa volontà di male. E ciò spiega forse la tempesta di insofferenza, di irresistibile avversione che scatenarono in me i modi civili e cortesi della mia vittima. Perché almeno questo posso dichiarare davanti a Dio, che nessun uomo mentalmente sano avrebbe potuto reagire con un delitto simile a una provocazione così inconsistente. E che non c'era in me più lume di ragione quando colpì di quanto non ce ne sia nel bambino che rompe con impazienza un giocattolo. Io, d'altra parte, m'ero volontariamente spogliato di tutti quegli istinti che, facendo per così dire da contrappeso, permettono anche ai peggiori tra noi di resistere in qualche misura alle tentazioni. Essere tentato per me significava cadere. Quello che allora si scatenò fu un vero spirito dell'inferno. Infuriai a lungo sull'uomo già caduto, assaporando con giubilo ogni colpo che assestavo. E fu solo quando la stanchezza cominciò a succedere al furore, ma ancora nel pieno del delirio, che il terrore mi gelò di colpo. Una nebbia si dissipò. Capii che ormai la mia stessa vita era in pericolo. E fuggii tremando dal luogo della mia efferatezza. Ma tremavo di paura ed esaltazione insieme, ugualmente accanito nella volontà di vivere e in quella appena soddisfatta e tanto più stimolata di fare il male. Corsi alla casa di Soho e ad ogni buon conto distrussi le mie carte. Poi mi incamminai per le strade rischiarate dai fanali, sempre in quella contrastata estasi dello spirito, compiacendomi fieramente del mio delitto, già progettando a cuor leggero di commetterne altri, e tuttavia affrettandomi e tendendo l'orecchio nel timore di udire, dietro di me, i passi del vendicatore. Hyde aveva una canzone sulle labbra nel preparare la mistura e bevve brindando all'ucciso. Ma i dolori della metamorfosi erano appena cessati, che già Henry Jekyll era in ginocchio e invocava Dio a mani giunte con lacrime di gratitudine e di rimorso. Il velo dell'amore di sé s'era lacerato da capo a piedi, e in quel momento ebbi davanti tutta la mia vita. Potevo seguirla dai giorni dell'infanzia, quando camminavo tenuto per mano da mio padre, fino alle fatiche e ai sacrifici della mia vita di medico, ma solo per ritornare sempre di nuovo, con lo stesso senso di irrealtà, ai dannati orrori di quella notte. Avrei voluto urlare. Cercai di ripararmi pregando e piangendo dalla folla di immagini e suoni agghiaccianti che la memoria mi suscitava contro. Ma tra le pause delle mie invocazioni, la faccia della mia iniquità tornava paurosamente a confrontarmi. Finalmente, il rimorso si fece meno acuto. E a poco, gli succedette un senso di liberazione. Il problema della mia condotta era risolto. Hyde, d'ora in avanti, non sarebbe più stato possibile. E io, che lo volessi o no, sarei rimasto confinato nella parte migliore della mia esistenza. Che gioia provai a questo pensiero! Con che volenterosa umiltà accettai di nuovo le restrizioni della vita ordinaria! Con che spirito di sincera rinuncia chiusi la porta per cui così spesso ero andato e venuto e ne spezzai col tacco la chiave.